I'm walking, hear the need, I'm talking. And you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking. For you and me, I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna sit right down and cry? What you gonna do when I see my body? All you gonna do is dry your eye. I'm walking, here's the deal, I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. E si rientra qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Ai microfoni Vincenzo Piro e Elisa Iacobucci vi accompagnano in un 2017 che si ricorda con una luce, perché ormai le ombre le abbiamo già vissute. Sì, infatti, cacciamole via tutte. Cacciamole via tutte, quindi abbiamo visto coloro che ci hanno abbandonato, le colonne portanti di, dei vari stili musicali. E adesso invece, non credo che, però, per esempio, anche lui che abbiamo appena sentito, mi pare che ci abbia abbandonato, se non sbaglio. Esatto, esatto. Fats Domino, conosci? Ma guarda, io so soltanto che era grasso. Ma come, insomma, Fats Domino, non puoi dirmi solo perché si chiama Fats? No, perché era grasso, perché per davvero. Era grasso per davvero. Ah, non perché Fat da grasso, visto che sei un traduttore. Io pensavo che fosse per quello, però correggimi se sbaglio. No, allora, in realtà, praticamente, da cosa deriva? Deriva dal fatto che assomigliava il suo stile a quello di due famosi musicisti che sono Fats Waller e Fats Pischen, e quindi lo soprannominarono Fats per questi due artisti. Ma questi altri due artisti erano grassi? Non lo so, dopo andiamo su Reeducation al esatto, andiamo a controllare. Allora, come primo gruppo del 2017 che vediamo essere praticamente scelto dalle più grandi etichette, anche da Rolling Stone, dalle riviste di settore, abbiamo gli Arcade Fire. Non so se li conosci, possiamo dire sì, che anche se oggigiorno, quindi oggigiorno 2018, giusto? Sì. Quindi se oggigiorno 2018 non ha più senso dire che è impossibile avere un proprio stile senza andare a ripescare a dei ritaggi musicali già ascoltati, con gli Arcade Fire abbiamo qualcosa di una mescolanza nuova. Perché da dove partono? Riprendono un po' gli anni Ottanta, infatti. Ma questo brano che ti farò ascoltare... Scusami se ti interrompo, ma gli anni Ottanta ci hanno lasciato qualcosa di buono? No, non credo, almeno nei miei riguardi, no. Penso che a livello musicale, d'abbigliamento, come gusto... Sì, quegli abitoni con le spalle giganti, esatto, io lascerei lì. Capelli cotonati e via andare. No, però no, allora, no. Per quanto riguarda il rock alternativo, considerato nel suo complesso, possiamo vedere gli Arcade Fire che sono riusciti in questo intento, quindi mantengono la loro personalità, però riescono comunque a ripescare il passato e avere delle sonorità interessanti. Beh, allora presentiamoli. Li presentiamo con questo brano che ha un inizio un po' alternativo, quindi sembrano quasi due brani nello stesso, un inizio un po' new wave, un po' un due così, per uno. Un due per uno, per poi in realtà partire verso il primo minuto con un ABBA tutto stile. We'll be right back. Daddy, how come you never around? I miss you and everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Un po' di ABBA dentro di loro c'è. Un po' tanto ABBA. Un po' tanto ABBA. Li senti un po' di ABBA anche tu? Mm-mm. Beh, però hanno la loro versione anche modernizzata. A me non è dispiaciuta comunque. Una personalità non da poco. Insomma, una poliedricità. Una poliedricità del suono. Ridillo due volte. Altre due volte velocissimo. 33 trentini. No, quello era un altro. Madria. Benissimo. E non solamente questo gruppo ha rispolverato lo stile degli anni 80 in questo 2017. Possiamo vedere, per esempio, che il gruppo degli Stella Maris, tra l'altro anche presentato di recente proprio qui insieme a me. A chi fa par sé, fa par te. Vedi, fa mi hai attaccato l'incarto qui. Il partot ti è piaciuto? Allora, abbiamo avuto qui ai nostri studi Francesco Gallea e Luca Macaluso dell'etichetta discografica Calisa Dischi, che ha prodotto, perché loro fanno solamente la parte dei vinili, quindi loro producono a Bologna i vinili per i vari gruppi musicali, tra cui gli Stella Maris. Chi è appassionato di vinili non può assolutamente non conoscerli. No, esatto, anche perché se non li conoscete potete giustamente riascoltare la puntata e approfondire la conoscenza. Ma oggi ne riparleremo, perché tra l'altro anche Rocket ne ha parlato moltissimo. È stato uno degli album italiani più chiacchierato e più discusso. Anche qui vediamo una band che riprende un po' lo stile anni 80. Poi è un super gruppo. Ora seguo un attimo gli appunti, perché ammetto, sono un po' ignorante, ma mi piace scoprire cose nuove. Bravo. Allora, leggo certo. Appunto, un supergruppo nato da un'idea di Umberto Maria Giardini, ex Molteni, e Ugo Cappadonia, che ha collaborazioni con i Sic Tamburo e il Pandent Diavolo. Le sonorità, tipicamente anni 80, sono al centro del progetto. Vedi, quindi ritorno. Grazie, Rocket. Non come Yabba, in modo ovviamente un po' diversificato, però sicuramente vi assicuro che se iniziate ad ascoltare questo brano non vi uscirà più dalla testa. Da ubriaco Cosa ne pensi, Vincenzo, di questo brano? Ti ho convinta? Vedremo domani se mi è rimasto nelle orecchie oppure no. Se oppure mi ritrovo no. a cantecchiarlo, ti chiamo e dico: maledetta! Maledetta! Allora, abbiamo parlato dei vari artisti che hanno lasciato la loro impronta nel 2017. E lei non poteva mancare in questa scaletta perché ho avuto la fortuna di conoscerla 4-5 anni fa proprio qui in radio, perché l'ho intervistata insieme a William Piana. È una forza della natura, è piccolina e piena di energia, una voce che ti entra veramente nell'anima. Hai chiesto il suo segreto? È la sincerità, la spontaneità e dimostrare al mondo che essere se stessi alla fine ripaga, e nonostante ogni tipo di eccentricità, perché la difficoltà è davvero essere normali in realtà, come diceva Lucio Dalla. E sto parlando di Roberta Giallo, che tra l'altro con Lucio Dalla ha collaborato e dovevano creare tanti progetti insieme, poi purtroppo è scomparso prematuramente. Però sicuramente la sua carriera è iniziata molto prima, da piccolissima ha già iniziato a cantare, ha sempre scritto le sue canzoni sia a livello strumentale che di testo, e finalmente il 2017 l'ha incoronata veramente, ha sbancato tutto, ogni praticamente premio italiano vincibile almeno a livello indipendente, vede Roberta Giallo sul podio. Per esempio, al MEI, il meeting delle etichette indipendenti, ha vinto il premio dei premi. A livello invece nazionale italiano, di recente ha vinto l'All Music Italia Awards, quindi è arrivata sul podio prima di altri artisti che magari hanno vinto, non so, ad Amici, per dire. Sì, sì. Quindi questo è davvero significa che l'impegno paga da sola, quindi a livello indipendente totalmente si promuove tramite i teatri, canta ovviamente, la vede spesso anche al Bravo Caffè qui a Bologna e ha una carica veramente esplosiva. E l'album del 2017 è L'oscurità di Guillaume, nasce come concept album, tutto molto legato a una sua storia d'amore, e si evolve brano dopo brano raccontando i suoi sentimenti. Però sono anche tantissime, anche per esempio le cover, dove ha reinterpretato tantissimi artisti come per esempio Dalla, ma anche i Beatles. Allora ci ascoltiamo questo brano, sentitela. Swiping the words of the servant that no one will be. No one can steal, we're barely working. Down in the socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? In the church and was buried along with a lake. Nobody came, Adam McKenzie, swiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was safe. Ma senti anche il violino? Guarda, è inarrestabile. È un Valentino Corvino che armeggia il violino. È un formidabile musicista, e tra l'altro nel 2017 ho avuto l'onore anche di avere suo fratello Marcello Corvino a presentare invece la sua casa di produzione, e quindi tantissimi spettacoli con Moni Ovadia, che tra l'altro ha avuto la possibilità di incrociare Roberta Giallo a teatro, e anche lei giustamente è rimasta felicissima perché ha ricevuto una cascata di complimenti, insomma, da Monio Vadia fa sempre molto piacere. Eh beh, vorrei ben vedere. Esatto. Allora, siamo già praticamente arrivati agli sgoccioli di questa ultima mezz'ora. Tempo vola quando ci si diverte. Vedi? E infatti siamo praticamente all'ultimo artista che corona il 2017 con un suo album. E sto parlando di un artista particolare, Cody Katznutz. Non so se Katznutz si pronuncia correttamente. Onestamente non lo so e non vorrei far gaffe. Lo chiediamo al traduttore. Passo. Va bene, questa volta l'attesa è stata molto più breve perché non è un artista che esce spesso con gli album. Tipo passano 7 anni, ne fa uno, poi gli altri 5 e nel 2017 è uscito il nuovo. Quindi è una persona riflessiva che insomma deve escogitare bene i suoi album prima di farli sentire al pubblico. È un po' come Martin, che tutti quanti aspettano i libri e ancora non escono. Sbrigati! Esatto. Se mi senti, sbrigati! E per esempio in My Love Divine Degree, in un'altra stimolante conferma di questo virtuosissimo artista con uno stile un po' eccentrico che a volte lascia un po' così spiazzati. Un po' spiazzati, però comunque al di là delle perplessità devo dire che è un suo azzardo creativo che viene apprezzato, quindi non sono l'unica ad averlo eletto come album del 2017, ma lo troviamo anche in tanti altri rotocalchi italiani ed esteri. Beh, allora fammelo scoprire perché... Sei curioso? Sì, sono curioso. Vado avanti, lo facciamo subito ascoltare, poi magari diamo due info. Ma sì, sì, facciamo chiusura. Così, dai. For the image of love, the image of love, the image of love, the image of love, the image of love, can hit the numbers deeper than the game, teach the young mind to never be ashamed, to embrace the race, the purpose and the name. Be the living image of love. Sentito? È un artista, questo brano veramente lascia il segno, almeno a livello di gusti personali miei, del tutto l'album questo è il brano che raccoglie tutti i miei gusti musicali. Date la colpa a lei se domani canticchierete anche queste canzoni. Esatto. Eh sì. Bene, quindi abbiamo praticamente raccolto il meglio e il peggio, luce e ombre del 2017, almeno sì, quello che siamo riusciti a concentrare. Abbiamo troppo poco tempo, dateci un po' più di tempo. Ma infatti un'ora qui come facciamo? Ghiacciateci e dite: vogliamo Elisa e Vincenzo che trasmettano più spesso e soprattutto più a lungo. Esatto. Benissimo, io Vincenzo ti ringrazio, l'ospite coronato del 2017, pronto come Lendo Splendo nel 2018. Sì, infatti, sono sempre pronto. Vuol dire che devi tornare, dai. Pronto a disposizione. Pronto a disposizione. Vi do anche un'informazione al volo: e noi domani e dopodomani a Modena ci sarà il Cosmo, che è la fiera del fumetto proprio a Modena. Quindi a chi piacciono queste cose, partecipate. Benissimo, quindi abbiamo anche l'evento del weekend. Avete anche cosa fare. Abbiamo anche proprio la pillola del giorno. Quindi l'ultimo brano ci fa volare in questo anno nuovo, speriamo pieno di grandi cose come un colibrì. Ciao a tutti. Ciao.